Se lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.